Un portavoce del governo cinese ha dichiarato che potrebbero essere 20.000 le vittime del terremoto registratosi lunedì scorso nella provincia del Sichuan. Nel frattempo la Cina sta registrando la più grossa movimentazione di truppe aerotrasportate della sua storia. Sono ben 10.000 gli uomini che stanno raggiungendo via aereo o che hanno già raggiunto la costa del Wenchuan a 100 km dalla capitale della provincia del Sichuan, che è la contea più colpita dal sisma. Lo stesso premier Wen Jiabao si sta recando lì. La situazione fuori da Wenchuan, nelle zone colpite dal terremoto, la provincia del Sichuan, ma che restano fuori da questa contea, resta abbastanza difficile. Nel villaggio di Qingcheng, sede del tempio, uno dei tempi più famosi del taoismo, una casa su tre è crollata, la gente dorme per strada in rifugi di fortuna, anche se sono stati approntati i primi campi d'accoglienza. La strada che conduce al tempio è parzialmente crollata e, pur essendo in alcuni punti ancora praticabile, si teme un ritorno della pioggia che potrebbe rendere la situazione ancora più difficile. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Chengdu.